Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti, buona mattinata. Speriamo che in qualche altra parte d'Italia il tempo sia un po' più clemente rispetto a Milano, dove continua a piovere. La primavera non la vediamo, allora magari più volentieri ci dedichiamo in questi giorni alla sistemazione di tutta la documentazione necessaria a compilare correttamente il nostro 730. È l'ultima chiamata? No, in realtà state tranquilli, non è così. C'è l'ultima chiamata per la dichiarazione dei redditi solo per chi vuole sbrigare nella pratica velocemente consegnare la dichiarazione alla propria azienda, al proprio sostituto d'imposta, azienda o ente previdenziale. Quindi il modello 730, se si sceglie questa via, va consegnato, ricordiamolo, entro la fine del mese, entro il 30 aprile, oppure entro il 31 maggio se ci rivolgiamo a un centro di assistenza fiscale o a un nostro commercialista di fiducia. E in questo caso però appunto ci sarà più tempo fino al 15 luglio per inviare i conti ai datori di lavoro. Oggi, con la collaborazione degli esperti del Sole 24 Ore, non solo torniamo a tracciare la mappa delle principali novità fiscali con i quali i contribuenti si stanno confrontando quest'anno. E allora ringrazio e saluto di essere di nuovo con noi il dottor Giampiero Guarnerio, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e degli esperti contabili, delegato alla fiscalità e al diritto tributario. Detto tutto correttamente? Correttissimo, grazie. Buongiorno e grazie di essere con noi e di aiutarci a barcamenarci nelle novità fiscali di quest'anno. Abbiamo già avuto modo di testare settimana scorsa come fosse difficile per molti contribuenti avere chiara la mappa degli sconti che sono disponibili quest'anno. E naturalmente buongiorno e grazie di essere ritornato tra di noi anche a Luciano De Vico, dottore commercialista esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. De Vico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vi ricordo che abbiamo interpellato Luciano De Vico, oltre al fatto che la motivazione è legata al fatto che ci aiuta spesso e volentieri su queste tematiche, ma anche perché Luciano De Vico è, insieme ad un team di esperti, uno degli autori della guida completa al 730 in edicola in questo periodo con il Sole 24 Ore, arricchita quest'anno tra l'altro da una serie di iniziative fruibili attraverso internet, per cui è la guida che fa luce su tutte le novità di quest'anno che sono arrivate con la finanziaria, con la manovra d'estate, ma anche con il decreto legge anticrisi. Quest'anno appunto le novità con le quali ci dobbiamo confrontare sono diverse, speriamo stamattina di potervi dare almeno le più importanti. E tra tutte le novità, peraltro, ci sono anche delle precisazioni fresche da parte dell'Agenzia delle Entrate, di cui vi daremo conto nel corso della nostra trasmissione. E allora via libera anche ai vostri interventi. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione, ma sapete bene che ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Prima di tuffarci nel fisco, però, ci tuffiamo nella borsa. Giornata oggi un po' ondivaga, chiamiamola così. Ieri è stata molto pesante di nuovo per i mercati, la seduta è stata particolarmente negativa perché intanto il mercato era reduce, in particolar modo Wall Street, da 6 settimane consecutive di rialzo, di recupero, per cui ieri abbiamo avuto un calo molto netto, un po' riconducibile alle fisiologiche prese di beneficio che il mercato ogni tanto opera, ma anche perché sono arrivati i conti che hanno deluso le attese di Bank of America, una delle grandi banche commerciali americane in forte difficoltà. Quella di Citigroup venerdì scorso aveva sorpreso positivamente le attese del mercato, ieri invece Bank of America ha fatto il contrario. Non sono servite le buone notizie di questo risico nel settore societario, che è ripreso negli Stati Uniti con l'acquisto di Sun Microsystems da parte di Oracle. Va benino, diciamo, il settore tecnologico grazie a questa notizia, ma tutto sommato ancora vedo un po' di incertezza oggi fra gli indici del vecchio continente, che ieri hanno perso fra il 3% e il 4%. Il rimbalzo è poca cosa, Londra più 0,18%, anzi adesso meno 0,18, Parigi più 0,6, Francoforte più 0,8, Milano più 0,23%. I titoli che stamattina stanno trainando la seduta di Milano sono Davide Campari più 4,37, Geox più 4, STM più 3,69, anche per i dati di Texas Instruments, e quindi sotto i riflettori i conti delle società dei chip, dei semiconduttori. UbiBanca più 3,24, Banco Popolare ancora bene più 2,81, Pirelli più 2,69, bene Enel, che ha ricevuto un giudizio positivo da parte di UBS, guadagna l'1,80%, mentre abbiamo un calo calo di oltre 3,5 punti su Buzzi Unicem, su CIR, anche su Fiat. Generali perde l'1,88, Impregilo meno 1,87, Mediobanca meno 1,80%. Lasciamo la borsa, ritorniamo a parlare di fisco e soprattutto della nostra dichiarazione dei redditi. Conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi. Si parte con il 7.30 e il primo appuntamento in calendario è fissato per il 30 aprile, termine entro il quale i contribuenti devono consegnare la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente pensionistico. Coloro che invece sceglieranno di avvalersi dell'aiuto di un CAF o di un commercialista avranno tempo fino al 1 giugno. Il modello 7.30, la dichiarazione dei redditi semplificata, riguarda circa 14 milioni di contribuenti ed è ormai sempre più gettonato rispetto al più complesso modello unico. Può essere utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche da addetti in cassa integrazione o contratti a termine, soci di cooperative, sacerdoti e parlamentari. Marito e moglie possono presentare la dichiarazione congiunta. Molte sono le novità che vanno tenute d'occhio per non perdere l'opportunità di ottenere uno sconto sull'imposta dovuta. Dalla possibilità per i nuclei familiari a basso reddito di richiedere il bonus famiglia previsto dal decreto anticrisi, alla detrazione del 19% sulle spese per l'affitto, riconosciuta agli studenti universitari fuori sede. Aumenta poi a 4.000 euro l'importo massimo su cui calcolare la detrazione sugli interessi pagati per i mutui prima casa. Da quest'anno è possibile inoltre sfruttare la detrazione del 19% anche sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico e per gli abbonamenti del trasporto pubblico. Sarà invece più difficile ottenere le detrazioni del 19% per l'acquisto di farmaci. Lo scontrino dovrà infatti essere parlante, cioè contenere la natura, la quantità e qualità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario. Accanto alle novità, si potrà comunque beneficiare dello sconto del 55% e 36% per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza degli asili nido e lo sconto del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori. Eccoci, 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Vedo che già eravate tutti belli pronti ad intervenire, a giudicare dal numero delle telefonate che stanno arrivando, ma come sempre ci fa molto piacere confrontarci con voi e con le vostre esigenze. Allora, da che cosa partiamo? Direi che possiamo subito partire dalle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, che come dicevo prima sono freschissime, sono arrivate appena un'ora fa e così abbiamo anche temuto il peggio, che ci costringessero a ribaltare la nostra scheda. A quanto pare invece così non è successo. Sicuramente è necessaria qualche precisazione rispetto alla guida del Sole 24 Ore sul 7.30 che è uscita qualche giorno fa. Allora cominciamo con Luciano De Vico per capire tra i punti che l'Agenzia delle Entrate ha formulato questa mattina per sciogliere i dubbi dei centri di assistenza fiscale. Ecco, quali sono le cose più importanti? Luciano, buongiorno ancora. Buongiorno a tutti. Allora, i punti più importanti sicuramente stanno nel tanto atteso chiarimento sugli scontrini parlanti. Secondo me eravamo tutti lì ad aspettare che qualcuno dell'Agenzia delle Entrate ci dicesse che ancora per un po' di tempo potesse essere usata un'autocertificazione o comunque potesse essere inserito il codice fiscale di chi chiede la detrazione a mano sullo scontrino. Così non è. Proprio con la circolare diffusa oggi, la numero 18, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ai vari dubbi dei CAF sulla compilazione del 730-2009, ha precisato che invece lo scontrino deve essere effettivamente parlante per dare diritto alla detrazione. E visto che ci siamo, lo ricordiamo, lo scontrino deve essere completo di natura, qualità, quantità di medicinali acquistati e codice fiscale del destinatario, del soggetto, cioè che ha comprato il farmaco e che ha di fatto intenzione di usufruire della detrazione del 19% attraverso la compilazione del modello 730. Ancora una novità questa, comincia ad essere chiarito che cosa si intende per quelle che sono le spese dei docenti per i quali spetta anche, per le quali spetta. Luciano, anche facciamo una cosa. Allora, sentiamo Luciano De Vico, sentiamo la telefonata particolarmente disturbata questa mattina, non so per quale ragione, perché siamo da telefono fisso a fisso. Allora noi la ripristiniamo per un attimo e nel frattempo faccio una chiacchierata naturalmente anche con il nostro secondo ospite, il dottor Giampiero Guarnerio, appunto consigliere dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, quindi cerchiamo di capire anche qual è il problema che c'è cioè sulle nostre linee telefoniche. Sempre ragionando nel merito delle novità dell'Agenzia delle Entrate di questa mattina, c'è questa molto simpatica che il dottor Guarnieri, appunto a microfoni spenti, mi diceva più che una semplificazione mi pare una complicazione inutile, vabbè, ma con il fisco siamo abituati anche a questo e ad altro. Il quadro residenza anagrafica in bianco, se dal 2008 non si è cambiato indirizzo, che cosa significa? Allora, significa questo. Qualche anno fa, nell'ottica della semplificazione, se vi ricordate il famoso 740 lunare di grande memoria, si era deciso di eliminare le informazioni, fra virgolette, inutili, e tra le tante venne individuata quella dell'indirizzo. Per quale ragione il contribuente dovrebbe ripetere tutti gli anni l'indirizzo? E quindi si decise di toglierlo come indicazione normale, e lasciando l'obbligo di riportare indirizzo solo nel caso di variazione da un anno all'altro. Cosa succede però? Che ci si è posti il problema se era possibile inserire l'indirizzo anche su base volontaria, cioè non lo cambio, lo metto lo stesso. Nel mondo dell'informatica questo è un problema importante, perché l'amministrazione finanziaria effettua dei controlli automatizzati sui file che riceve e sicuramente ha una tabella la quale dice se questo campo è compilato deve essere variato, se è uguale non va compilato, quindi rischio di scartare la dichiarazione. Ebbene, è arrivata la precisazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che dice che non si può indicare l'indirizzo se non è variato. Cosa succede? A me per esempio che l'azienda che mi ha consegnato il 730 è nella parte dell'anagrafica già compilato, adesso non me lo ricordo, quindi mi sta dicendo che l'indirizzo se non è variato non dovrebbe esserci. Questa non è una semplificazione, è una complicazione, perché se quando mi accingo a compilare il mio 730 normalmente cosa faccio? Prendo quello dell'anno precedente, su quello dell'anno precedente non ho l'indirizzo, mi può venire il dubbio di quale fosse l'indirizzo all'origine riportato. Siccome questa regola ormai esiste dal 93, credo, andiamo indietro anche per 20 anni. 20 anni fa probabilmente la dichiarazione non ce l'ho più e quindi non ho più la certezza di sapere quale indirizzo io a suo tempo ho comunicato all'Agenzia delle Entrate. Potrebbe sembrare un'indicazione poco importante, poiché la persona normalmente conosce dove abita, ma siccome c'è l'uso o la necessità di rivolgersi a consulenti, il consulente non è detto che sappia tutta la vita del proprio assistito. Mi chiedo quale sia il problema anche del mettere l'indirizzo, lo si mette e basta, è una cosa talmente semplice. Ecco. Allora, dire, una cosa che è veramente semplice è diventata complicata. Il CAF, precisa l'Agenzia delle Entrate, può tuttavia chiedere al contribuente di indicare la residenza in un documento a parte, è certo, in modo tale da poterlo sempre rintracciare l'indirizzo aggiornato anno per anno. Nella serie un documento in più. Sono due righe. Luciano De Vico è tornato tra di noi? Sì, adesso la sento molto meglio, infatti c'era un fruscio sotto che non riuscivamo bene ad interpretare. Eravamo rimasti alle spese, se non ne sbaglio, che gli insegnanti possono sostenere per aggiornarsi dal punto di vista professionale e poi di conseguenza possono beneficiare di una detrazione di un determinato tetto. Sì. Su un massimo di 500 euro. Cosa ha precisato l'Agenzia delle Entrate su questo stamattina? Ha precisato che danno diritto alla detrazione le spese relative a beni o servizi che favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, e fa anche degli esempi l'Agenzia delle Entrate, parla di libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari. Con una precisazione, qui risponde alla domanda della consulta dei CAF che chiede: ma noi come facciamo ad attestare che quelle sono spese effettivamente sostenute per l'aggiornamento? Questo lo deve attestare il docente con una dichiarazione da rendere evidentemente nella fattura o nella ricevuta fiscale. Ulteriore precisazione: occorre la fattura della ricevuta fiscale dalla quale si evinca la tipologia del servizio prestato o del bene acquistato. Perfetto. Poi ci sono anche altre novità che riguardano gli universitari che studiano fuori dalla propria città d'origine, ci sono delle novità che sono relative alle detrazioni per familiari a carico residenti all'estero. Adesso andiamo a precisare anche tutte queste altre precisazioni dell'Agenzia delle Entrate di questa mattina, però direi che posso cominciare anche a far intervenire subito i nostri amici che ci chiedono da casa, che ci chiedono aiuto. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, il nostro, ma è vostro perché è a vostra disposizione. Allora cominciamo con Massimo da Milano. Massimo, sì. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Avevo questa domanda. Io ho presentato un CAF, un 730 precompilato. Sì. E loro mi hanno detto che loro praticamente non controllano tutte le ricevute che io ho messo e così via, ma trasferiscono, diciamo, semplicemente i dati che ho inserito. Quella mia domanda era questa: se per caso, non so, io ho dei dubbi su una onlus e così via, se per caso io ho fatto un errore, nel senso che ho inserito una spesa che non andava dedotta, o ho fatto un errore di calcolo delle spese sanitarie e così via, e ci fosse un controllo e venisse verificato questo errore, certo, ne risponde il CAF o ne rispondo io, diciamo, come contribuente? Allora Massimo, aspetti lì che adesso sentiamo i miei esperti. Tra l'altro la guida al 7.30 del Sole 24 Ore, a pagina 14, così fa proprio un quadro specifico sulle sanzioni a carico di chi sbaglia a fare appunto la compilazione. Allora, dottor Guarnerio, il nostro ascoltatore si è rivolto ad un CAF a cui ha trasmesso il suo 7.30 appunto regolarmente compilato. Evidentemente non aveva l'alternativa del sostituto d'imposta, perché altrimenti, visto che l'ha fatto in tempi così rapidi, poteva consegnarlo direttamente all'azienda. Detto questo, se ci fossero degli errori? Allora, questo è un caso che capita, che può senz'altro capitare. Difficile dire così sui due piedi alla fine chi paga, perché da una parte il CAF ha un ruolo di intermediario, però non è un intermediario semplice, è un intermediario qualificato, tenuto a corrispondere anche un premio assicurativo per far fronte a eventuali problemi di questo tipo. E quindi assume anche una certa forma di responsabilità professionale nel fare il suo mestiere. Però quindi ci risulta che l'intermediario deve verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione, infatti, dei redditi. Però sai, quando si dice conformità, conformità vuol dire: mi ha detto che ha sostenuto una spesa medica e io l'ho messa nel quadro della spesa medica, oppure che quella spesa medica è vera o falsa. Quindi quando c'è un dubbio di questo tipo, dire così a priori di chi sarà la responsabilità Non è così semplice. Quindi il nostro ascoltatore avrebbe dovuto a priori chiedere un'assistenza fiscale per la compilazione ex novo della sua dichiarazione dei redditi, nel momento in cui la presenta già compilata con tutti i certificativi delle spese sostenute. A mio avviso, quando l'errore è palese, il CAF non può non risponderne. Quando invece fosse legato a un aspetto valutativo... Il quadro è un po' più complicato. Sentiamo anche Luciano De Vico cosa ne pensa. Giusto quello che si diceva sul visto di conformità. In realtà, quando ci si rivolge al proprio sostituto d'imposta, si presenta una dichiarazione già compilata e non si lega nulla, nessun documento, nessuna documento di spesa. Occorre invece presentare la documentazione quando ci si rivolge a un CAF o uno dei professionisti abilitati. Questo perché il CAF o il professionista abilitato sono obbligati a rilasciare il visto di conformità, ma il visto di conformità altro non è se non una sorta di dichiarazione con cui il CAF dice che quanto dichiarato è conforme alla documentazione presentata. Ad esempio, si presenta il CUD e il CAF certifica che quelle ritenute derivano dal modello CUD. Quindi diciamo che l'indicazione che il CAF a cui si è rivolto l'ascoltatore e gli ha dato non è esattamente corretta? A mio avviso non è esattamente corretta, perché in ogni caso, peraltro, voglio dire, la circolare di oggi lo conferma, si risponde alla consulta dei CAF, che non prestano soltanto assistenza fiscale a pagamento. Mi spiego meglio: se ci si rivolge ad un professionista o ad un CAF con un modello in bianco e si chiede a loro di compilare la dichiarazione, ovviamente si chiede una prestazione professionale, certo, quindi ha un suo costo. Certamente, l'abbiamo detto più ma volte. Ma se io vado dal mio CAF con un modello già compilato, sono ovviamente obbligato a portare anche tutta i giustificativi, in sostanza, i giustificativi, il modello CUD e quant'altro, di modo che io possa a questo punto far attestare al CAF che quella dichiarazione è conforme alla documentazione in possesso del contribuente. Allora, diciamo che poi il contribuente deve conservarla questa dichiarazione, certo, l'Agenzia delle Entrate può chiedergliela. Sono aspetti piuttosto importanti questi. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, che questa mattina si è di nuovo rituffato nel ginepraio del fisco legato al 7.30, ma insomma qua non la scampiamo neanche quest'anno, dobbiamo consegnare la nostra dichiarazione dei redditi entro il più breve tempo possibile. In particolar modo c'è la scadenza imminente del 30 aprile per chi intende avvalersi del proprio sostituto d'imposta, per cui può consegnare il 730 regolarmente compilato alla propria azienda o al proprio ente previdenziale, se invece ci troviamo in presenza appunto di una persona pensionata. Allora, stamattina con chi stiamo chiarendo tutte le questioni in sospeso, per la verità non ce la faremo mai ad affrontarle tutte, è materialmente impossibile, Giampiero Guarnerio, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, e nostro Luciano De Vico, esperto delle Sole 24 Ore, fra gli autori della guida al 730 in edicola. In questo periodo con il Sole 24 Ore, peraltro volevo precisare, è una guida in edicola a parte, quindi va sostenuto un corso a parte, non lo trovate allegato al Sole 24 Ore, per chi ci chiede appunto come mai questa mattina non l'ha trovato in edicola. C'è, chiedete, è una pubblicazione a parte, costa 4,90 euro. 800 24 0024 il numero verde per i vostri interventi. Eravamo rimasti in sospeso su come comportarci con il CAF. Allora, magari ribadiamo ancora alcuni punti. Se, dottor Guarnerio, se ci rivolgiamo al commercialista, sappiamo benissimo che il commercialista ci deve compilare per intero la dichiarazione dei redditi, altrimenti no, in realtà non è detto, possiamo anche presentargliela. Non a caso, e lei ci fa da intermediario. Nel caso del modello unico, sono previste le due caselle a seconda che il commercialista assuma solo un ruolo di intermediario oppure di consulente, diciamo, di consulente che ha compilato materialmente la dichiarazione dei redditi. Nel 730 non ci sono le due caselle. Ciò nonostante, diciamo, normalmente nel caso del professionista nessuno si rivolge al professionista solo per l'invio della dichiarazione dei redditi, c'è sempre un aspetto di consulenza, nel qual caso ovviamente la responsabilità è piena, come lo è anche per il CAF nel caso in cui il CAF venga, si incarica interamente della compilazione. Esatto. Certo. Il caso invece diciamo grigio è appunto quello che emerge dal quesito dell'ascoltatore precedente, perché nel caso in cui il 730 sia precompilato, è chiaro che chi lo compila si assume la responsabilità di quello che ha fatto. Ciò non di meno l'intermediario CAF è un soggetto qualificato che ha diciamo le sue facciamo fatica ad immaginare che a busta chiusa consegni a fisco all'amministrazione fiscale. Non è neanche esattamente solo un postino, tant'è che, come giustamente diceva il collega, appone comunque un visto di conformità. Sarà una questione proprio di merito, caso per caso, capire se in quella fattispecie dalla documentazione prodotta era evidente che la spesa non era detraibile, il CAF ne risponde. Se invece la detraibilità discende da aspetti non chiaramente desumibili dalla documentazione, e lì, insomma, magari il contribuente può essere chiamato a... Non a caso, in questa circolare... Diciamo dell'Agenzia delle Entrate di questa mattina, che ha proprio dei... Alcuni casi si è detto è responsabilità di chi produce il documento produrre un'autocertificazione che chiarisce la destinazione della spesa o la sua detraibilità, il caso appunto dell'insegnante. Allora, andiamo avanti intanto con i nostri ascoltatori. Avevamo in attesa da un po' Alan da Pordenone, che ci ha scritto anche questa mattina a Salvadanaio, per cui insomma qua stiamo parlando di mezzi di trasporto pubblici. Alan, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Allora, dalla mail penso sia abbastanza chiaro. Io sto combattendo contro tutti, perché mi fanno fatica a detrarre lo scuolabus che è dato in affidamento dal mio comune, sì. Mentre io sono un autista di linea, per cui conosco abbastanza bene la materia, chiamo per assurdo che uno studente che va all'elementare pagando l'abbonamento pubblico di linea può detrarlo. Io che servizio pubblico di linea non ce l'ho, però lo scuolabus, che anche il Consiglio di Stato diversi anni fa l'aveva parificato al servizio pubblico, non me lo vogliono detrarre. E io non so più che santi chiamare. La sento, ma che cosa sta facendo, mi scusi? Sto facendo 15 km in mezzo ai campi. Abbiamo anche trovato il tempo di ascoltare Salvadanaio, magari non credo che... lavorare, esatto. Alan, sentiamo un po', allora io le dico questa mail, l'avevo girata già in via preventiva a Luciano De Vico in modo che la potesse leggere con attenzione e cercare di circostanziare anche una risposta che facesse al caso suo. Allora, un autista di autobus di linea, per guidarli serve il servizio pubblico. Adesso non ho capito esattamente cosa chiede il nostro ascoltatore, ma sono sicura che Luciano ha letto la mail con attenzione e ci riesce ad interpretarla. Riferisce alla deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Qui si tratta ovviamente di intendersi sul soggetto che presta il servizio. Questa, peraltro, lo ricordiamo, visto che ci siamo, è una novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno. Si parla ovviamente anche qui, già in vigore dall'anno scorso per la verità, di una detrazione del 19% su un importo massimo di 250 euro. Sì. E a mio avviso ci può venire in aiuto una circolare che è la numero 19 del 7 marzo 2008 dello scorso anno, la quale stabilisce che per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone ad accesso generalizzato, e qui ritengo ci sia il pubblico, resi da enti pubblici, ma non solo da enti pubblici, dice l'Agenzia delle Entrate, anche da soggetti privati. Mm. Purché ovviamente i soggetti privati siano affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Cioè non vale soltanto, a mio avviso, e nell'interpretare la circolare che interpreta a sua volta la norma, non deve trattarsi soltanto di un servizio pubblico, ma anche di un servizio privato che sia però, sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. E quindi secondo me in questo caso ovviamente ha diritto alla detrazione, come correttamente riteneva l'ascoltatore anche nell'email. E perché il CAF gli dice di no? E quindi può forzare il CAF eventualmente e imporre, cioè se la compila da solo a questo punto ritorniamo al problema di prima. Anche in questo caso il CAF avrà bisogno per attestare la corrispondenza della documentazione, della dichiarazione alla documentazione prodotta, e quindi per rilasciare il visto di conformità avrà bisogno anche di avere, ritengo, il documento giustificativo della spesa, che peraltro lo ricordiamo non è neanche semplice, in quanto per avere diritto alla detrazione occorre conservare il biglietto di trasporto, nel biglietto di trasporto deve risultare la ditta, la ragione sociale dell'impresa che ha emesso il titolo di viaggio e che quindi effettua la prestazione di trasporto, la descrizione delle caratteristiche del trasporto, l'ammontare ovviamente della spesa, il numero progressivo dell'abbonamento del biglietto e la data che deve essere apposta al momento dell'emissione. Adesso ho capito anche perché la questione delle spese legate ai trasporti detraibili anche nella puntata scorsa è stato uno dei terreni preferiti dei nostri ascoltatori, perché capisco che per quanto ci possa sembrare in apparenza molto semplice, in realtà è un terreno molto complicato. Dottor Guarnerio, torniamo sulle novità dell'Agenzia delle Entrate di questa mattina, perché ci sono state delle precisazioni molto interessanti anche per quelle famiglie che hanno dei figli universitari che studiano fuori dalla città di origine. E fino a qualche tempo fa sapevamo che anche se questi ragazzi studiavano all'estero, le spese sostenute per l'abitazione pagata generalmente dal genitore all'estero, appunto, potesse essere una spesa detraibile. In questo caso invece l'Agenzia delle Entrate è stata piuttosto chiara. Sì, l'Agenzia delle Entrate ha fondamentalmente chiarito che lo sconto del 19% si applica a condizione che lo studente rimanga nel territorio italiano. È una mia opinione personale, questa interpretazione contrasta un po' con il trattato europeo, perché crea una qualche discriminazione nella competizione tra le università, e quindi secondo me sarebbe stato meglio estendere la detraibilità quantomeno alle spese sostenute all'estero ma nell'Unione Europea. Così, a mio avviso, è una discriminazione ingiustificata. Detto questo, a quanto ammonta questo sconto, lo vogliamo ricordare? Per l'alloggio che comunque è in Italia? Al 19% della spesa sostenuta con limite massimo di 2.633 euro. È riconosciuto, ricordiamolo, gli universitari iscritti presso un ateneo situato in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza. Peraltro, visto che sono tutte novità che sono arrivate proprio poche ore, vi ricordo che domani mattina sicuramente troviamo tutte le ulteriori precisazioni, magari anche ulteriori interpretazioni rispetto alle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sul Sole 24 ore. Sono disperata perché vedo tantissime persone che vorrebbero intervenire e come al solito ne riusciamo ad accontentare una minima parte. Allora mi sbrigo e ne sento subito qualcuno. Giovanni da Roma, benvenuto. Da Verona, mi scusi. Da Verona. Vabbè, perdo qualche colpo. Senta, con la pioggia. Sì. Buongiorno. Senta, io ho due cani, no? Intestati alla moglie, che a carico mio è in comunione di beni. Sì. E purtroppo quest'anno mi dicono che non si possono scalare le spese veterinarie e altre cose, no? Specialmente un pastore tedesco che ha bisogno di spese all'anca e via dicendo, no? Sì. E poi è morta mia suocera giugno l'anno scorso, è andata a pagare mia moglie, e anche quello sono 2.000 e passa euro, non si possono scalare, insomma, alla faccia dell'aiuto alle famiglie. E quest'anno sa com'è, il governo ci ha dato il bonus straordinario, magari anche quello è, come dire, un ambito per il quale vale la pena questa mattina tornare a fare delle precisazioni. Luciano De Vico, allora, le spese veterinarie quest'anno? Le spese veterinarie non è cambiato nulla per quest'anno, per cui sono detraibili. Perché il nostro ascoltatore era convinto nel contrario, chissà dove l'ha letto, Spetta una detrazione nella misura del 19% nel limite massimo di 387,34 euro. Deve trattarsi però di spese sostenute per la cura di animali detenuti legalmente a scopo di compagnia, oppure per esempio per pratica sportiva. Allora, nel caso dell'ascoltatore era che i cani sono intestati alla moglie? Esatto, quello intestati alla moglie, sì. Che è a mio carico e in comunione di beni. Quindi non lavora la moglie. L'importante è che ovviamente la spesa sia intestata al soggetto che chiede la detrazione. Se la spesa è intestata al soggetto che chiede la detrazione, i problemi non ce ne sono. In questo caso, anche se la spesa è intestata evidentemente al coniuge a carico, la detraibilità c'è. Ma stavo aggiungendo ancora che il 378,34 euro è un limite superiore, ma esiste anche un limite inferiore, nel senso di 129,11, nel senso che si può portare in detrazione il 19% della spesa che supera 129,11, ma fino a 387,34. Quindi, insomma, per sintetizzare, per Giovanni, lui può fare la richiesta per ottenere questa detrazione, nulla cambia se gli animali sono intestati alla moglie. Sì, infatti. Ecco, questo era il punto. È importante, ovviamente, che la spesa sia intestata alla persona che la sostiene, di fatto. Si vuole sbizzarrire anche sulle spese per il funerale, De Vico? Anche per quello non è cambiato nulla, nel senso che per le spese funebri spetta una detrazione nella misura del 19%, però fino a un importo di 1.549,37 euro. Quindi, insomma, un po' di risparmio lo può trovare Giovanni, non capivo perché avesse interpretato invece in maniera del tutto negativa. No, vabbè, niente, De Vico. Ovviamente anche qui, voglio dire, ecco, a questo punto ricordiamolo, vale sempre il principio che può detrarre l'intestatario della spesa, cioè chi la spesa effettivamente l'ha sostenuta. Poi ci sono alcune spese che possono essere detratte anche se sostenute nell'interesse dei familiari a carico. Addirittura altre spese possono essere detratte anche se sostenute nell'interesse di familiari non a carico. E poi ci sono tutte le altre detrazioni che spettano solo, lo ripetiamo, e questi due rientrano tra quelle, se la spesa è stata sostenuta dal soggetto che ovviamente è intestatario quindi del documento. Beh, questo diciamo rientra in uno dei limiti che la normativa prevede per la detraibilità degli oneri. Un altro tema molto interessante per le famiglie che ci ascoltano ce lo propone Enzo dalla Spezia. Enzo. Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Enzo. Ascolti, io volevo chiedere se era ancora possibile, perché fino all'anno scorso mi sembrava di sì, detrarre le spese per le attività sportive dei figli a carico, se minorenni mi sembrava che fosse. Sì. Ci sono eventualmente anche le proprie, voglio dire. No, è qua. Lei è, altrimenti, guardi, qua con la palestra saremo tutti quanti pronti, io e la mia collega qua, Valeria, adesso a parte gli scherzi. Il dottor Giampiero Guarnerio ci aiuta anche ad orientarci nelle spese per attività sportive dei nostri figli. Io non ne ho, però, insomma, sono attività abbastanza abitudinarie per i bambini nelle nostre case. Dottor Guarnerio. Sì, sul punto anche qui non è cambiato nulla, i ragazzi devono avere un'età compresa tra i 5 e i 18 anni e la spesa è per l'iscrizione annuale o l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinate alla pratica sportiva dilettantistica. Visto che è successo a me, lo racconto. Attenzione, non ai corsi di addestramento alla pratica di una disciplina, per esempio il tennis, deve essere proprio l'iscrizione a un circolo. il corso sporadico per imparare un'attività sportiva non è detraibile. Ho capito. Invece aspettiamo anche, visto che abbiamo parlato da questa mattina di tutte le precisazioni che l'Agenzia delle Entrate ha formulato proprio questa mattina per sciogliere numerosi dubbi nei quali si stanno barcamenando in queste ore i centri di assistenza fiscale, un'altra precisazione che aspettiamo è quella che dovrebbe in realtà formulare il Tesoro relativamente alla destinazione del 5 per 1000 per le famiglie terremotate. Sì, non sappiamo ancora niente, dottor Guarnerio, vero? Sì, non è ancora stato chiarito. Ho letto qualche dichiarazione sulla stampa, credo rilasciata da Tremonti, che c'era questa intenzione, poi vedremo cosa succederà. Certo, per il resto invece, per qualunque altro ente di volontariato, di ricerca al quale vogliamo fare questa destinazione, c'è un apposito riquadro nel 730 dove possiamo indicare... Dobbiamo scrivere il codice fiscale dell'ente destinatario del 5 per 1000. Esatto, va indicato il codice fiscale dell'ente a cui si intende destinare il 5 per 1000. Allora, Franco da Trento. Pronto? Franco, ci siamo, buongiorno. Sì, pronto? Franco, la sento benissimo. Mi sente? Franco? Pronto? Niente, lo dobbiamo lasciare evidentemente. Franco, allora, ancora sulle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate di questa mattina, ci sono sempre a proposito degli universitari delle precisazioni sulla frequenza di università privata, detrazione in linea con la statale. Dottor Guarnerio, mi aiuta? Sì, anche qui non ho capito perché è stata fatta la domanda e quindi la precisazione, perché non è cambiato nulla. Infatti la circolare ribadisce che le spese per la frequenza di istituti e università private danno diritto alla detrazione entro i limiti stabiliti per le tasse e i contributi versati a istituti statali. Di fatto occorre andarsi a informare, e spesso le università private danno questa informazione direttamente, a qual è il costo di iscrizione per un corso equivalente all'università statale, e questo è il limite di spesa detraibile. Franco, mi sente pronto? Adesso? Sì, pronto, io sento. Sì, esatto. Mi sente lei? Franco, io la sento benissimo, lei ci deve fare la sua domanda, non so come dirglielo altrimenti. Va bene, ok, allora, nell'ottobre 2008 ho acquistato abitazione come prima casa in comunione dei beni con mia moglie. Già lei titolare, già proprietaria di una casa comprata precedentemente, di cui aveva usufruito del beneficio come prima casa. Contestualmente abbiamo sottoscritto un mutuo per questo secondo acquisto e a nome mio con la fiduzione di mia moglie. Sì. Chiedevo, per il 2008... Può usufruire della detrazione sugli interessi passivi? La detrazione sugli interessi passivi se in misura del 100% per quanto riguarda me e mia moglie, chiaramente non credo. Sì. Chiaramente. E mia moglie come si deve regolare per quanto riguarda la dichiarazione di questa casa rispetto a quella precedente, visto che anche su quella c'era il mutuo? Allora Franco, andiamo subito da Luciano De Vico se ci può aiutare rispetto a questo caso. Allora, un acquisto di una prima casa credo per Franco, ma non è prima casa per la moglie. È possibile che possa esserci una situazione di questo tipo? Sì, è possibile, perché ovviamente questo non la prima casa è la casa destinata all'abitazione e quindi il marito può aver acquistato la casa con i benefici della prima casa, ma a questo punto mi sfugge dalla domanda. La domanda è sul mutuo, cioè sugli interessi passivi sui mutui. Sì. Allora, lo ricordiamo, anche questa è una novità di quest'anno, il tetto per la detraibilità del 19% sugli interessi passivi e oneri accessori del mutuo è di 4.000 euro. È cambiato l'importo, ma non sono cambiate le condizioni per l'accesso al beneficio, e cioè deve trattarsi ovviamente di mutuo per l'acquisto della prima casa, e quindi l'ascoltatore evidentemente, se non ho capito male la domanda, ne può usufruire, e vale però nel limite cioè deve essere ripartito tra i cointestatari del mutuo, e quindi 2.000 e 2.000 se il mutuo è cointestato, ma non solo. C'è un ulteriore limite, nel senso che se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portate in detrazione solo una parte di interessi passivi, quelli che coprono il costo del mutuo, e quindi il costo del mutuo sempre lì aumentato ovviamente delle spese notarili e degli altri oneri accessori, e quindi nelle istruzioni e nella guida è riportata anche la formuletta che serve per capire quanta parte di interessi passivi sul mutuo è detraibile e quanta parte no. Non è detraibile soltanto quella parte relativa all'importo del mutuo che eccede il costo di acquisizione dell'immobile. Luciano De Vico, grazie molte per essere stato con noi, e anche a Giampiero Guarnerio questa mattina. Ovviamente abbiamo accontentato solo una minima parte dei nostri ascoltatori, ma d'altronde i professionisti ci sono per questo, i CAF lo stesso, e speriamo che tutti riescano a portare con successo avanti anche l'operazione di dichiarazione dei redditi quest'anno. Ma magari ci torneremo per aiutarvi ancora qualora non decidiate di non avvalervi appunto della consegna al sostituto d'imposta entro la fine del mese. C'è tutto il tempo appunto per tornare a parlare di questo argomento. Grazie a tutti, a domani. Salva Danaio.